Che può essere? Parrucchi Dugini, buonasera. Buonasera. E sono già 5 minuti. Già giudizio io, non farvi da assai. Non ho capito ciò. Questo? Ma farvi da più poco. Ehi, cazzo, chi è appena aperto la bocca? E con questo tempo qua, un poco fa di caldo e un poco fa di freddo. Non sai come ti puliti. Noi ce l'abbiamo con i treni, cosa vuoi fare? Cazzo. No, il fatto di ero in campagna stasera e ci stava bene, c'era l'arietta, un po' nuvoloso, e per cui ci stava bene, là. È meglio così, se ci stava bene. Perlomeno, oggi si stava bene, non era caldo, dai, per cui è andata bene, dai. Alle 5 e mezzo me ne sono salito. Ah, benissimo, meglio così. Purtroppo con il caldo un po' te ne stai al sole ad Abui, se n'anda è prescritto e dici che ti butti. Allora, è tempo suo, ancora fa caldo, cazzo, domani mi sembra che piove, boh, non lo so. Speriamo di no, perché devo salire su, cazzo. Ciao, ora diciamo a pulire la posto. Per me l'ha messo acqua, adesso non lo so. Poi possiamo mettere il bar in Biavi, Cazzo, io ho già finito la campagna, tutto fatto, bella, pulita, sembra un giardino adesso. Adesso finché non cresce l'erba sono tranquillo. Ed è così. A me sei a posto. Ehi. Un secondo, troppo. Sì, infatti. È pulita, meglio così. A me ce l'hai a posto, ce l'hai. Certo. Tutto a posto. Mi sono messo a posto anche con la rete. Quella che aveva fatto il cinghiale, e per cui adesso tutto perfetto, là. Adesso per un mesetto sono tranquillo, vai. Meglio così. Ma così a posto, te ne sei liberato. A posto, proprio a posto, cazzo. Non mi è sembrato vero, cazzo. Poi adesso cominceranno le piogge, per cui lasciamolo fare, tu. C'è da bruciare un po' di roba, ma quella me la brucio quando si può bruciare. Quando è tempo che posso bruciare, me la brucio piano piano. Quella si inizierà alla prima settimana d'ottobre. Già è poca la roba, per cui ottobre, novembre non mi interessa. Quando posso bruciare, me la brucio. Per essere tranquillo, capito? Non è poco finché si può bruciare. Infatti è così. Quando si può bruciare si può fare. Dammi 5 minuti di tempo, torno, dimmi che entri tutti a capicolì. Già sono qua. Oi, briciola! No, fammi la briciola mia. Vabbè. Tu sì che te ne affutti? Qua se mi ascolti, sì. Se non ti accorgi io, ti accorgi a nessuno. Allora, venite di travagliare, o stanotte devi andare. No, il cazzo, io mi volevo essere. Io devo sfidare i tre, cazzo stanotte, così giù. E se rientra da ridere? Domani lo stesso. Alle 5, lo stesso orario, poi faccio venerdì, sabato, no, faccio sabato, domenica e lunedì di notte. Quanti si trovano più bene, di notte o di lì? Ma io preferisco, no, guarda, sinceramente io sono, per me è uguale, guarda, sinceramente è uguale. Così è, andiamo bene, andiamo allora. La notte, lo sai, non ti passa. Invece durante il giorno vedi gli operai, confirmi. Infatti è così. Infatti è così, e bisogna fare come si bisogna fare. E se lo va a far caldo, eh? Caldo è freschito, anche perché ci va in parido. È freschito. Stamattina c'era 18 gradi, c'era. Non lo so, sì. E quando ci sono uscito alle 6 e mezza a portare a lui, c'era freschetto. Ma gli butto la felpa in alto. Poi sono andato a prendere le medicine per il cane. E oggi ho cominciato a pulire il video. Giammari, tu sì. Io Giammari sono qua. Eccoci qua. Che c'è la Manuela? Sì, non so che c'è Manuela. Ah, che c'è Mangese a faccia a due, a to. Non lo so, ma che si allontanando. Attento, Fiorellino. Non può fare già la bocca piena. Ha detto che si è apparato il danno. Addirittura. Infatti, dopo non ci sono qua, ma a fare mai niente. Certo. Ah, dov'è? Lascialo qua. E così è tutto, ohia, per carità. Sì, purtroppo è così, sì. Cazzo, io devo fare. Finalmente non è possibile, no? Certo. Ohia, un certo così, so. Un po' caldo, un po' freddo. E per cui, oggi, dai, non si fa di male, dai. Non si fa male. E per cui... Però adesso comincia a rinfrescare, specialmente la sera. Sono abbassata la temperatura a buro, sta facendo. Quindi? Ma io ti ho abbassato di parecchio, e si sentiva il freschetto. Ma da, non so che si dove, di 18 gradi c'erano. Per cui a momenti se la riesce a momenti entra aria calda, capito? Vabbè, però di notte vengo su prefitto, ma mi sa che torna a Sanremo in Vaconi. Infatti adesso mi sono zappato pure io con nessuno, cazzo, per mangiare cioè dare un questo in giorno, cazzo, avanti, ma che voglio dire, per i ghiacciati, cioè. E lo freddo mi fate più male da voi, allora mi dà pure i piedi, cioè. Dove c'è l'occhio in giorno, va. Sì, infatti è così, tocca a fare così, tocca a fare. Purtroppo, abbasso mi fa un fracchetto, cioè siamo più pesati, cazzo, avevo freddo, si cadivo, o si zappemmo. Però Lucaggio è feo, cazzo, Lucaggio non ti fate riposare, cazzo, per cui studi e non ti fate riposare, perché l'inferno hai preso le zappie e trombe. Infatti, ma con sindrome di Beppuro, ma di zappie, a Lucaggio mi state più bene. Macchia, e poi cazzo si può zappire, Lucaggio, a tutta la persona. Cazzo fra zappire, allora si prende a tutta la persona. Cazzo. Addirittura adesso è comprato questa borsa elettrica. Ah, fino a non me ne pongo a chi si è l'attivo io, Non si sa mai che gira a voltaggio. È da dire la cosa. Ma è fatto, a me l'attivo, poi c'è solo due, un paio di lussi. 3 anni fa, ma poi non me ne faccio fare, che tanti non me ne preoccupare, e non me ne pongo, ogni mare c'è la cacchia, no, cacchia, già mi pongo, eventualmente mi pongo la borsa, cacchia, cacchia, la borsa a casa, mi metto la borsa a casa, al solito, non te la spingo. Infatti, è così bisogna fare, così, no, io... quando non riuscivo a scaldarmi i piedi e cose che in genere fanno subito. Allora ci metto la borsa dall'acqua calda, così mi scaldo io e mi scaldo le mogliere. Beh, infatti no, no. Ce l'ho la borsa, capito? No, la borsa si va a incoricarmi mezz'ora prima. Me la scasso, dopo ce la metto. Quando mi incorico al gioco, anche il punto caldo, per cui c'è la borsa a caldo e sono tranquillo. Entro, ma sono disciutto, Infatti è così. Bisogna fare così, bisogna fare. No, oli, oli. È un macello veramente. Poi, anche l'estate, io sto sempre freddo ai piedi. Sto sempre freddo ai piedi per il respingio. Cazzo, se guai non mi bocca la mossa. Cazzo. Io dici magari è più caldo, per cui magari è diverso, ma è vero, a Giuseppe di Buttelli di ghiacciato. Infatti è così, per avere delle dita sempre in movimento, anche se non è da in caldo. Poi si ghiaccia già un po' bene. Ma poi una mezz'oretta che cade, che cade, cioè, si è zappato, per cui già i caldi, dai, e dormi tranquillo. Ma prima notte di fine, se non fai la borsa, cazzo, freddo, arribini, addosso no, ma arribini. E per cui io faccio sempre così in inverno. Mi attacco prima la borsa, mezzo la prima, c'è la bocca dritto, cade per bocco e calcio un calcio. Avanti Manuel! Ebbè, briciola, poi biondo, buonasera a tutti. Me pare siamo gabirrughi, non biondi, a chi lo biondo non si piace a lui. I gabirrughi non si piace la va, tu c'è il so. Infatti, specialmente a me. Giammarì, sta a posto, sì. Se ne ho già ne mangio, se no mi fanno fare un giro di tavolo e va bene ugualmente. Anche a me oggi un giro di tavolo mi ho fatto, oggi non c'è niente a mangiare. Sei tranquillo, ma te, sai che no. Non saranno, non ti dà nessuno per quei giochi gridi. Vai, ciao. Infatti è così. Se no, la gente da voi, vi credi, sta toccando di viarla. Hai già mangiato, vai, Emanuele? Sì, Giovanni, oggi ero dalle 5 fino alle 3 ho fatto, domani lo stesso faccio lo stesso turno. Sì, ho già mangiato, non sono sbagliato, ma non sono arrivato. Non sono andato mezz'ora fa quando mi ha sentito il tono. Mi ha mangiato un po' di... guanciale, ho fatto un po' di rigatoni e polpette impanate. Hai detto, e polpette impanate ti ha fatto? Ha fatto bene, certo. Non mica deve rimanere senza mangiare, certo. Ha fatto bene. Paghiccio che dagli chiedi. Andiamo, dai. Giovanni, l'altro giorno mi sono pesato, la bilancia mi ha detto sempre che ti sali da una volta. Ma mai da vedi, vedo un po' la questione come il senso, una volta la bisogna fare un mese. Ha fatto un barogliere, ma ha fatto un bar. Ho mangiato 110 kg, to. Oh, c'è che ho telefonato al cardiologo, la signorina mi ha detto ciao, lei dovrebbe telefonare, a marzo dovrebbe telefonarmi, adesso io dove lo metto? Ha detto, seduto, già sono seduto nella sedia, quindi non mi può mettere in nessun posto. Mi ha detto, il foglio se lo deve far fare dalla dottoressa adesso, perché io non so, mi chiami da gennaio per prenotarsi per il prossimo anno, ma rinviato al prossimo anno. E allora me l'ha fatta, sono andata a fare la visita, ho chiamato il computer 4 per il 2025, per San Duque, devo fare la risonanza, al 2025. E senti che sembra fine, alla fine ho detto, siamo alla fine già. Ma aprile però la faccio, al 2025 ad aprile. Vabbè, siamo a ottobre, novembre, dicembre, febbraio, marzo, fra sei mesi, là. Cazzo, non dalle sette. E io passa l'impresa, vai. Per carità, uno cazzo deve crepare quando fa, quando è morto lo chiamano fra, visto. Ma io ho qualche cardiologo, coso, quello che in via Ricoccosta, no, mi barighi su. Lì da andare. Ma dove sono andato anche io una volta? Figlia! Che cardiologi nell'ospedale non ti seguono. Mi ha detto di cercarne un altro. E quello già è bravo, dai, già è bravo un cardiologo. Sì, solo che non me ne seguo a metà di telefonarli a marzo per prenotarmi. Invece al 2025 per la prenotazione. Un casotto, un casotto. Vabbè, pazienza. L'importante è che me la porti alla dottoressa il foglio del coso. Come ti si chiama? Il foglio del... vabbè, e non me la metto giù di qua. E deve pegarti qua? No, per prendere le pastiglie. E il 17 devo andare dalla dottoressa alle 11, se me lo fa lì. No, il foglio, ma il foglio per prendere le medicine. Allora, sono segnate, non mi ricordo come si chiama. L'impegnativa. No, non l'impegnativa. A te, ce l'ho scritto nel telefono. È un foglio che fanno tutte le medicine che prende, capito? Che ogni anno scade quel foglio, capito Manuè? Non lo so come si chiama, io pensavo che era un foglio che... ho capito che gli ha prescritto tutte le medicine, però non si chiama l'imperativa. Ah, no, un altro foglio, anch'io ce l'ho quel foglio. Lo fa anche il centro di artistico, cazzo, quello lì. Però adesso automaticamente prima di cadere la giornata loro stesso, capito? E per cui se lo fa direttamente, lo fa direttamente così, automaticamente, ecco. E te la giornata tramite computer, già lo so, te lo rinnovano. Infatti, è così, a me pure, ma io infatti gli ho salutato mia moglie, ho visto adesso che va direttamente, automaticamente, se ne dopo, perché prima quando andavo in farmacia c'era questo, non te lo davano, perché adesso la farmacia gli sa già che tu lo puoi prendere perché è già aggiornato quel punto, capisci? Piano terapeutico. Dai, no. Piano terapeutico, hai capito? Se non c'è quel foglio lì, le medicine non te ne danno. E si chiama terapeutico. Piano terapeutico si chiama. Se adesso mi dico una ferata, prima guardate con i pegativi li brigavo i medicini. No, perché questa medicina qua per la globalizzazione del sangue. Devo avere il piano terapeutico, se no non te ne dazzini. Fatto? E a Gian Maria. Vai, sto finendo che c'è un testo, dai. Ci sentiamo domani, ci siamo ora. Ciao, salutone, grazie a chiacchierare. Ciao Manuel, buon proseguimento, dai. Io chiudo. Ehi dai, ciao Gian Maria, chiudo anche io, tanto non se faccio qualcosa di in casa. Ciao Tore, ce la riascoltiamo, dai, tutte le mie chiuse. Buona serata a tutti e due. Vai Tom. Ok, ciao Gian Maria, ci risentiamo alle prossime, ok. Ciao Manuele, stammi bene. A risentirci. Ehi, ciao.